credi un po' di aver esagerato. D'accordo, come effetto è stato unico, ma tutto quel discorso è stato inutile. Qualcuno l'avrà già dimenticato. È inutile contare su persone che scompaiono anche prima di te. È inutile cercare dietro un angolo, cercare un nascondiglio dentro sé. Di tutto ciò che è stato, tutto sarà dimenticato. Puoi credere sia polvere o una lezione del passato. Di quello che è avvenuto non ti ricorderai nemmeno. È stato solo un attimo poco sereno. Non credi che alla fine si rimane con tanti bei discorsi in solitudine? Vuoi sempre ricordare di essere unico o l'unico rimasto intorno a te? È inutile contare su persone che scompaiono anche prima di te. È inutile cercare dietro un angolo, cercare un nascondiglio dentro sé. Di tutto ciò che è stato, tutto sarà dimenticato. Puoi credere sia polvere o una lezione del passato. Di quello che è avvenuto non ti ricorderai nemmeno. È stato solo un attimo poco sereno. Yeah. amiche ci parliamo, queste amiche non dimenticai, che tu non avrai mai, che tu non avrai mai, che tu non avrai mai, che tu non avrai mai. Thank you. per molti mesi tu via, portavo niente con noi. Ma poi senti dentro a me una voce, with a mother, parla piano, batta le scatto e batta a mano, vivi nulla. Thank you. scherzando, forse delirando, ma cerchiamo di dire cose serie cantando. Aprite quei giornali tutti colorati dalle pubblicità, sarete imbabbionati. Leggete tra le righe, leggete attentamente, scrivete una canzone molto più semplicemente. Niente di quel che diciamo è stato inventato, sfogliando le riviste lo abbiamo trovato. Boicotta la stampa, boicotta la TV e la TM ancora di più. Amari dolcezze, sconquasse carezze, mancanza di certezze, ti vogliono vendere un mare di schifezze. Cattura l'avventura, fidi, spini e flore, facile da usare. Alza gli occhi al cielo, sta per arrivare, a 36 km sta l'uomo per lanciare. Ventricolari, proietta nella giulla un'ombra che scandaglia. Fa solo essere in casa a lavorare a maglia. Amari dolcezze, lattosi schifezze, mancano le carezze in un mondo di prodezze. Bello come cotto, attivo per contratto, tutto ti assicura qualità e sicurezza. Pavimenti lucidi di contentezza. E lui da 18 anni è indipendente, ma non è un autonomo sorridente. Una grande università ha frequentato, ha viaggiato tutto il mondo, si è laureato. Ora è un manager, un arrivato, oltretutto pure dipendente dello Stato. Broccoli! Basta, basta perdere tempo, o le giornate non voleranno più. Su questo sarai d'accordo anche tu, accendi la radio, accendi la TV. L'associazione Lipu ti chiede una mano, comportati anche tu da essere umano. Non per te ma per gli uccelli, belli gli uccelli, stornelli fringuelli. È un popolo sensibile all'inquinamento, basta perdere tempo, è giunto il momento. Stop pollution, stop, stop pollution, stop pollution, stop, stop pollution. Conosci gli uccelli, studiane il comportamento, significa capire in ogni momento cosa fare e cosa non fare. Forse impareremo addirittura a volare. Chi tocca morta al desiderio di possederlo, provate a toccare, cercate di acchiapparlo. Con la sua cupola di vetro zaffiro, se non ti va, battiti in nero, sposati un po' a giro, infilati in culo un ferro da stiro. Prima di essere tua passotti mano in mano, sappiamo che l'ultimo era un americano. Ora sono qua, lei è rimasta, guarda la vecchia che c'è stata, basta. È stata lavorata da sette mani, ora la testa posta è più cibi sani. Sei l'unico che può suo corpo accarezzare, gli altri devono solo stare a guardare. Ricorda Monte Grappa per poco il piacere, in questa Milano solo da bere. Ci sono amari che sanno ascoltare, speriamo che col tempo non inizi a parlare. Peruzzo vigliacco, sono 40 anni che si nasconde, ma noi continueremo a cercarlo, a fare ronde nei materassi, nelle giacche a vento, dentro nelle bambole, ma sei un tormento. Sotto le strade, le dighe e i ponti, dentro le valigie, poi facciamo i conti. Ancora quella saccola incallita, ma dici Laura Palmer, dov'è finita? Troverai anche il coraggio di farti vedere, figlio di Peruzzo già si fa le pere. Forse sulla scrivania di De Benedetti, tanto noi guardiamo anche sotto i letti. Ora Laura Palmer fa marchette, ette, ette, dalle 3 alle 7. Ci sono cose che nascono perfette, anche i bambini nelle provette. Nasce da qui una parte del tuo mondo e i bimbi nel vetro fanno il giro tondo. Il vetro salva, lo yogurt della bambina, conservi meglio tutto, anche la fontina. La qualità della vita prima di tutto, friggi con l'olio invece che lo strutto. La bimba di plastica non avrà l'odore, nemmeno di alluminio avrà il sapore. Forse solo del vetro manterà il colore. E poi al tuo bambino comprali un giochino, pronto chi parla? Forse Laura Palmer. Ma invece telefono, telefono. chiedimi dov'è la circo da mesi. Zigos e sbirri si sono già arresi. Anche se telecomando intelligente, purtroppo da solo non ci serve a niente. Ma lieta di informarvi è la normende, che se una tele normale non vi prende, potreste guardare il televisore rincoglionendovi per ore e ore. E cose straordinarie con utility puoi fare, forse Laura Palmer anche puoi trovare. Boicotta la stampa, boicotta la TV, e lo facciamo noi, provaci anche tu.